424. Piselli alla francese prima maniera. Questa che vi do è la dose per 1 litro di piselli freschi sgranati. Prendete 2 cipolle novelline, tagliatele a metà per la loro lunghezza, richiudetele con alcuni gambi di prezzemolo in mezzo e legatele. Ciò fatto, mettetele al fuoco con grammi 30 di burro. E rosolate che siano, versate sulle medesime un buon gramaiuolo di brodo. Fate bollire quando le cipolle saranno spappolate, passatele, spremendole insieme col sugo che rimetterete al fuoco coi piselli e con 2 grumoli interi di lattuga. Conditeli con sale e pepe e fateli bollire adagio. A mezza cottura, aggiungete altri grammi 30 di burro intriso in una cucchiaiata non colma di farina e versate brodo se occorre. Prima di mandarli in tavola, legateli con 2 rossi d'uovo sciolti in un po' di brodo. In questo modo riescono assai delicati.